Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 25 ottobre 2023 o 2023, mettetela come volete. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che sta iniziando, naturalmente dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, ma potrete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete tranquillamente scaricare a gratis dal sito della radio, appunto radiocittafujiko.it. Ogni mercoledì un paio di ore di musica registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, niente bootlegs o raramente bootlegs, ma sempre si spera di qualità. E tutte le volte, tutti i giorni, tutti i mercoledì per meglio dire, si inizia con una novità. Quest'oggi è una novità molto interessante per quel che mi riguarda, ad opera di uno dei migliori gruppi britannici usciti negli anni Ottanta, un gruppo che per diverso tempo, diversi anni, ha combattuto, fra virgolette, scusate adesso questi termini bellici non mi piacciono molto, diciamo che ha gareggiato, ecco, forse meglio, ha gareggiato con gli U2 in quanto a fama, in quanto a qualità musicale, poi sono un po' persi e comunque si chiamano tuttora Alarm. Gli Alarm arrivano dal Galles e sono stati attivi dal 1981 al 1991 nella prima formazione, che aveva la caratteristica, almeno nei primi tempi, di suonare con chitarre acustiche. Erano molto aggressivi, molto duri lo stesso, ma avevano chitarre acustiche. I maligni dicevano perché non avevano abbastanza soldi per comprare la chitarra elettrica. Comunque dopo nel 91 sono sciolti e nel 1999 si sono riformati sotto la guida di Mike Peters, anzi Mike Peters ha riformato gli Alarm, del quale è l'unico membro stabile e originale. Da lì lui, che era già il leader nella prima formazione, ha fatto un po' il cattivo, il bello e il cattivo tempo. È una grande band questa degli Alarm, a me piace molto. Molto, molto aggressiva, molto potente, ma non mai grezza, mai troppo sguaiata, diciamo. L'album che vi presento oggi si chiama Poppies Falling From Above, è uscito recentemente, è un doppio album. Fra l'altro nel loro sito gli Alarm hanno un sacco di album in vendita che non troverete nei negozi, e come sempre il problema principale non è tanto acquistare l'album, ma sono le spese postali, che a volte costano più dell'album. Comunque, fra l'altro, questa ha una caratteristica, diciamo un errore nella copertina frontale, perché è From Above, che si scriverebbe Above, invece è senza la E, ma questo è un altro discorso. L'album è stato registrato a Cardiff, la St. David's Hall, il 15 aprile dello scorso anno, quindi diciamo che è più fresco di tante altre cose che ci siamo ascoltati. Andiamo subito ad ascoltarcelo. Fra parentesi, dirò che dell'anno sono un quartetto, le tastiere, le percussioni e la backing vocals. Abbiamo la moglie di Mike Peters, che si chiama Jules Jones Peters, ma questo è un gossip che interessa veramente poco. A noi interessa la musica, questi sono loro con il loro spirito del 76. Mm-hmm. sing it to me. Well, I find myself in reverie about what we might have had and what might have been. We had something going once that happened such a long, long time ago. It was way back in 76. Our friendship formed a pure innocence. We first met on Matthew Street, and we heard something that would set us free. A sign stands over a door. It says, "For lads who shook the world." In the depths of those heady nights, we would dream of those bright lights. Oh, my friend, oh, my friend, oh, my friend. This is the home of the gathering from now on. Come on! A one, two, three, four! Same as they did for us then. mercy light shine bright in the distance. Where are you now, my friend? You see, some nights when I can't sleep, I still think of you, of all the promises, all the dreams we shared. I know those lights still call to you. I can hear that. Sono di un paesino del Galles dal nome impronunciabile, che mi rifiuto assolutamente anche il tentativo di pronunciarlo, però un paesino vicino a Cardiff, dove è stato registrato questo doppio album, lo ripeto, si chiama Poppies Falling From Above, quindi giocano in casa gli Alarm, che però hanno uno zoccolo duro praticamente in tutto il mondo, una cosa che è molto sentita dai kids, ex kids britannici. E come io dicevo, appunto, è stato registrato a Cardiff questo doppio album. Cardiff è la città principale del Galles, con quasi 370.000 persone. Solamente la città, poi c'è chiaramente quelli che vengono chiamati suburban. Comunque, fra l'altro, è gemellata sia con Legnano che con Bari qui in Italia, e quindi è una città conosciuta dalle nostre parti. Fra l'altro è conosciuta anche perché è una città che è stata fondata dai romani ed è da una lunghissima storia, quindi per quel che riguarda l'impero romano e tutto quello che ne è conseguito. Quindi avrete già capito che nella prima parte della trasmissione ci ascolteremo dei brani registrati in questa città del Galles, Cardiff. Forse ho dimenticato di dire che il brano di prima si chiama Spirit of 76, ma andiamo subito ad ascoltarci qualcosa registrato appunto nella città gallese, e per dovere di ospitalità andiamo con un paio di bands americane, ad iniziare con una grande band che purtroppo ha avuto un grosso problema, un incidente aereo che ha falcidiato il line-up della band, e dopo non sono praticamente più stati gli stessi. Naturalmente avrete già capito, sto parlando di Lynyrd Skynyrd, grande band da Jacksonville, Florida, che ha pubblicato nel 1976, poco prima dell'incidente, un album che si chiama Give Me Back My Bullets, che album che è stato ripubblicato nel 1999 con due brani aggiunti, ma poi è uscita nel 2005 una deluxe edition con due CD, del quale uno conteneva parecchie canzoni dal vivo, fra cui alcune appunto registrate al Capitol Theatre di Cardiff esattamente il 4 novembre del 1975. Ce l'andiamo ad ascoltare una di quelle, si chiama Double Trouble the Next Nerd. That rumor that's going around, baby's got a man all the way across town. It's the same old story, tell me where will it end? Just I heard the news, it's the same old blues again. Well, I wrote you a letter, must have read it wrong. At your doorway, baby, you was gone. You took a lot of courage. Thank you. Nell'anno 2000 i Pearl Jam registrarono e pubblicarono tutti i concerti del tour mondiale che fecero, e quindi è facile trovare le varie città in questa enorme serie, penso siano un'ottantina addirittura se ricordo bene, e tutti i doppi album, concerto integrale, a volte anche le richieste di bis alla fine del concerto si dilungano forse anche un po' troppo, addirittura 5-6 minuti a volte, ma comunque sempre molto interessanti. Per Jam sicuramente non deludono e non sbagliano. Il 6 giugno del 2000 erano all'International Arena di Cardiff e appunto questo brano che si chiama Black, che è uno dei brani più belli secondo me per quel che riguarda la produzione dei Pearl Jam, arriva proprio da questo doppio album che racchiude un sacco di bellissimi pezzi. Fra l'altro poi Pearl Jam ci hanno rifatto, nel senso che negli anni e nei tours successivi hanno sempre pubblicato qualcosa che valeva la pena di acquistare, anche se poi il discorso è sempre, come dicevo prima, quando tu compri un album per posta dagli Stati Uniti, a volte e spesso purtroppo le spese postali sono superiori a quelle che sono le spese del singolo album. Un avviso per gli ascoltatori, adesso c'è la pubblicità, ma dopo andrà sicuramente un pezzo molto molto bello, che però è molto molto lungo, quindi sedetevi, non dico apritevi una birra perché è un po' prestino, ma fate quello che volete, sedetevi, rilassatevi, è un pezzo che vi consiglio caldamente, però prima dovete sopportare questo. We'll be right back. river in the screaming sea. Sounds like time everywhere I go. questa era la dimostrazione di come Boomtown Rats non fossero solamente Don't Like Monday, ma erano un grande gruppo, come ha dimostrato questo brano che si chiama Banana Republic, brano che è stato registrato al Top Rank di Cardiff il 12 maggio del 1982, appartiene a un 12 pollici di oramai tantissimi anni fa, come succedeva spesso, un brano in studio sulla facciata A e due brani dal vivo nella facciata B. Ma veniamo in tempi più recenti con un paio di gruppi che arrivano proprio dal Galles. Il primo di questi è una band che si chiama Manic Street Preachers. Sono attivi dal 1986, inizialmente erano un quartetto, poi sono diventati un trio, perché il chitarrista originale è scomparso. Nessuno ha mai saputo dove sia finito, che cosa è successo, hanno fatto ricerche su ricerche su ricerche, ma non sono mai riusciti a recuperarlo, per cui sono rimasti in tre, anche se poi naturalmente dal vivo si avvalgono di musicisti aggiunti. Qui abbiamo una raccolta che proviene da quello che fu un giornale musicale britannico, il migliore insieme al Melody Maker. Si chiamava New Musical Express. Fra l'altro ho letto proprio in questi giorni che tornerà, non in edicola chiaramente, ma tornerà su internet con una versione cibernetica di questo giornale, che ebbe tantissimo successo negli anni d'oro della musica rock, parlo del 70-80. Quando cominciarono a declinare le vendite, i giornali musicali e non solo cominciarono a pubblicare insieme ai vari numeri del giornale anche degli album. Questo è uno di quelli, si chiama Annual Probe Volume 1. Onestamente non so se è uscito un volume 2, nemmeno un volume 3, ma questo è molto interessante e si apre proprio con questa band gallese di quale vi ho detto, che ripeto si chiamano Manic Street Preachers. Il brano si chiama This Is Yesterday, è stato registrato a Cardiff International Arena il 20 dicembre del 1998. It's called This Is Yesterday. Listen to what I say, just listen to what I say. This is a new song. This is called The Bartender and the Thief. Altro gruppo gallese, si chiamano Stereophonics, prima c'erano i Manic Street Preachers, questi anche loro arrivano dal Galles, anche questi da un paesino vicino Cardiff dal nome assolutamente impronunciabile, e sono attivi dal 1992 sempre sotto la guida di Kelly Jones, che oltre a essere un ottimo chitarrista ha una voce veramente incredibile. Questo mini album, chiamiamolo Extended Play, dal quale ci siamo ascoltati The Bartender and the Thieves, è stato registrato al Cardiff Castle il 12 giugno del 1998, quindi anche lì giocano in casa, come avete sentito, un pubblico molto molto caldo, e per questa band che nel Gran Bretagna, nel Regno Unito come si suol dire, è veramente famosissimo. Famosi sì, ma niente a che vedere con quelli che arrivano adesso. È appena uscito il loro nuovo album, non l'ho ancora ascoltato nella sua interezza, ma è il primo pezzo, è il primo singolo che è uscito, è veramente fantastico. La seconda ballata lascia un po' il tempo che trova, ma il primo è veramente molto molto bello. Mi aspetto grandi cose da questo album. Naturalmente sto parlando di Rolling Stones, che nel 2019 hanno pubblicato una raccolta, l'ennesima raccolta, che è uscita in versione 2 CD oppure 3 CD. Il terzo CD era formato tutti i pezzi dal vivo, E il primo pezzo è stato proprio registrato al Principality Stadium di Cardiff il 15 giugno del 2018 ed è un super classico della produzione. Loro sono naturalmente Rolling Stones. Il brano si chiama Get Off My Cloud. Naturalmente Rolling Stones, come vi dicevo, questo brano che uno fa parte della prima parte della carriera di questo che fu un quintetto, poi è diventato attualmente un trio. Comunque registrato a Cardiff il 15 giugno del 2018. Andiamo a concludere questa prima parte della trasmissione dedicata a Cardiff con una cosa un po' pesante, uno dei re della chitarra hard rock. Lui si chiama Ritchie Blackmore. Fuoriuscito dai Deep Purple, fondò questi Rainbow, che hanno pubblicato oramai tanti anni fa, nel 1983, un singolo 12 pollici, come dicevo prima, un brano in studio nella facciata A, due brani dal vivo registrati alla St. Davis Hall di Cardiff nel settembre del 1983, e la stessa sala dove è stato poi registrato l'album che vi presento oggi come novità, quello degli Alarm, ma questo ne parleremo anche dopo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Stranded, loro sono Rainbow. Where I'm not a soul, very strange. Sometimes Come on down, come on down, and we'll make the stand. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, oggi mercoledì 25 ottobre 2023, iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi. Sono gli Alarm, l'album che è Pop is Falling from the from Above, che riporta in auge secondo me questa band. Come dicevo prima, nel loro sito hanno diversi album dal vivo, ma questo secondo me è quello che li frega tutti, forse anche perché è l'ultimo, ma sicuramente è ottimo. Si chiama The Stand il pezzo che ci siamo ascoltati, e che è stato uno dei loro primi grandi successi. Questa band, che come ho già detto in precedenza, poi non mi ripeto più, viene tuttora dal Galles ed è capitanata da Mike Peters, cantante e chitarrista. Come sempre però, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora oggi tantissime cose, a costo di essere veramente insistente. Il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E cominciamo dal 1968 con una grande band irlandese che attualmente è veramente, credo, completamente dimenticata. Si chiamavano Taste, era la band con cui esordì nel mondo musicale Rory Gallagher. Era un trio, un power trio come si suol dire, sulla falsa riga dei Cream, della Jimi Hendrix Experience, eccetera. Rory Gallagher, chitarrista che non si discute e che ha fatto tantissime cose belle anche nella propria carriera solista. Questo album si chiama semplicemente In Concert, è stato registrato al Marquis di Londra il 25 ottobre del 1968, è un vinile, e la seconda facciata si apre con questo classico, questo traditional che Rory Gallagher ha riarrangiato a modo suo, Sugar Mama. Sugar Bomb. in the morning, babe. You know I love my tonight. Traditional britannico rifatto alla sua maniera di Rory Gallagher, anche se qui era insieme ai suoi compagni di cordata per quel che riguarda i Taste. Siamo nel 1968, Sugar Mama, il brano che ci siamo ascoltati il 25 ottobre al Marquis di Londra, uno dei locali storici della capitale britannica che ha fatto la storia della musica rock. 1970, un anno d'oro per quel che riguarda Frank Zappa e le sue Mothers of Invention, anno d'oro tanto che è stato omaggiato da un cofanetto quadruplo che naturalmente racchiude ogni ben di Dio per quel che riguarda questo grande chitarrista. E nella terza parte, si chiama Live Highlights Part 3, c'è un brano che è stato registrato al Depot di Minneapolis il 25 ottobre appunto del 1970. Più che un pezzo, più che una canzone, è un'improvvisazione. Si chiama Turn It Down, Frank Zappa, 1970. E qui, come era uso fare Frank Zappa, ma non solo lui, partiva il nuovo brano. Quello che interessava a noi era questa Tone It Down, come vi dicevo, semplicemente un'improvvisazione registrata in quel di Minneapolis il 25 ottobre del 1970. 10 anni dopo invece ci trasferiamo a Londra, però con un artista americano che risponde al nome di Ryland Cooder. Grande personaggio, dategli in mano uno strumento a corda e lui lo suona ad altissimi livelli, a partire dalla chitarra, a finire col buzuki, andando avanti con l'arpa celtica, un po' di tutto. Personaggio forse anche un po' troppo eclettico. Un altro 12 pollici, oggi andiamo di vinile alla grande, stavolta abbiamo un 12 pollici tutto dal vivo, due brani nella prima facciata e due brani nella seconda. Quello nella prima è stato registrato al Victoria Apollo di Londra il 25 ottobre del 1980, appunto, e ci dice che ogni donna passa per un'automobile. Crazy about an automobile, every woman I know, Ry Cooder, 1980. About an automobile. Every woman I know crazy about an automobile. And here I am standing with another mother over here. Every woman I know crazy about an automobile. Every woman I know crazy about an automobile. Here I am standing with walking women home is a thing of the past. One of these women wants to ride around in class. Some like Cadillacs, some like Ford, some like anything as long as it rolls. And here I am standing with nothing but a rubber heel. And loving just can't be beat. You and your woman in your own front seat. She can play with your keys, shift your gears, turn on the radio just loud enough to hear her. She can turn up your heat and flip on your van hook. Niggas start pulling just as fast as you can. Crazy about an automobile. Grande band, quella dei Black Crowes, capitanata dai fratelli Robinson fin dal 1984, hanno subito anche delle interruzioni quando i due fratelli litigano, poi la band si scioglie per qualche tempo, ma poi quando probabilmente il conto corrente in banca va in rosso si riuniscono e fanno dei tour e degli album. Infatti attorno ai due Robinson hanno girato tantissimi altri musicisti che c'è da perdere la testa. Il brano che ci siamo ascoltati è uno dei loro classici, si chiama Remedy e arriva da un doppio CD single, che vuol dire che nella stessa confezione ci sono due singoli. È stato registrato a Londra agli Air Studios con davanti al pubblico, come avete sentito era il 25 ottobre del 1994, scusate. E un avviso per coloro che fossero interessati: il primo dicembre uscirà l'album, secondo me migliore insieme al primo, della discografia dei Black Crowes. Si chiama The Southern Harmony and the Musical Companion, un album che è uscito oramai tanti anni fa, ma che verrà ripubblicato appunto il primo dicembre in tantissimi formati, fra cui uno con un intero dischetto live che sicuramente vi proporrò prossimamente. Purtroppo spesso vi propongo dei musicisti che ci hanno lasciato più o meno recentemente. Quella che propongo adesso ci ha purtroppo lasciato quest'anno, se ricordo bene, in luglio, ce l'ho appunto da qualche parte, adesso vado a vedere esattamente. Sì, il 26 luglio di quest'anno. Avrete già capito che sto parlando di Sinéad O'Connor, una grande artista, grande personaggio che ha avuto onestamente seri problemi dal punto di vista psichiatrico e tantissime sfaccettature nella sua personalità. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è abbastanza scontato, non è suo, è un brano di Prince, ma è quello che le ha dato il maggior successo di tutta la sua carriera ed è un brano assolutamente splendido. Il pezzo è stato registrato a Vicar Street, un locale di Dublino, nel 2002, appunto il 25 ottobre, e fa parte di un doppio album che ha il primo dischetto che è praticamente un'antologia e nel secondo invece c'è un intero concerto registrato appunto in quel di Dublino. Si chiama She Will Dwells e tutta un'altra pappardella dietro che non vi starò a dire. Il brano invece l'avrete capito, si chiama Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Thank you. Un brano veramente molto emozionante, suggestivo, tranquillo, bellissimo. Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Era il 25 ottobre del 2002, forse prima ho dimenticato di dirlo, ma in quel di Dublino, che poi era la sua città di provenienza. A concludere i ricordi today di oggi, ma anche Città Fujiko Live Club, arriva una delle mie band preferite di questi ultimi anni. Si chiama Tedeschi Trucks Band. Susan Tedeschi e Derek Trucks sono marito e moglie, hanno formato questa band insieme ormai diversi anni fa, dopo carriere separate. Fra l'altro Susan Tedeschi fu al Castel San Pietro in Blues Festival nel 2006 e mi onoro di conoscerla personalmente. Questo è un piccolo così. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è il brano che dà il titolo al loro primo album live, ed è una cover, si chiama Everybody's Talking. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, naturalmente 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, più il web con l'apposita app che potete scaricare dal sito della radio, radiocittafujiko.it. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Everybody's Talking, Dunford Music Hall di Toronto, Ontario, Canada, 25 ottobre 2011, Tedeschi Trucks Band. Ciao a tutti da Nevio. say you